Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Melog. Il piacere del dubbio. Gianluca Nicoletti. Avevo visto un video in inglese, in lingua inglese, che parlava praticamente della possibilità di Google di ascoltare le conversazioni, le nostre conversazioni in background, senza direttamente il browser aperto. E in base a quello che si diceva, insomma, traeva le informazioni che poi sarebbero uscite nei vari siti, no? Io non so se questa cosa è vera, non ho ancora fatto questo test, lo voglio fare in live registrando insieme a voi. Nulla di eccitante nel riascoltare la propria voce, se non fosse per il fatto che Google registra delle porzioni di conversazioni completamente casualmente. Di informazioni bisogna. E non ci è dato sapere il perché e sulla base di quali informazioni Google Assistant si attiva e registra solamente determinate porzioni di conversazioni. Questo è un grande dilemma su cui spesso ci confrontiamo nelle chiacchiere con le persone che ci stanno vicino. È vero che il nostro telefono ci ascolta? Ora posso dare per certo che il nostro telefono possa essere attivato se noi fossimo interessati, non so, da un'indagine giudiziaria e quindi può in qualche maniera, non so attraverso quale sistema tecnologico, ma chi questo fa di mestiere, usarlo come una microspia per la pubblica sicurezza, per capire se noi stiamo compiendo un reato, insomma diventa uno strumento di intercettazione. Ma immagino che per attivare questa funzione occorra un iter giudiziario e burocratico ben preciso. Quello che tutti noi temiamo è che in realtà il nostro telefonino, che lasciamo sempre acceso, difficilmente lo spegniamo, lo mettiamo in carica, non perdiamo tempo ad accenderlo, possa anche in qualche maniera attraverso il nostro assistente vocale percepire quello che noi diciamo. Beh, qui si aprirebbe una parentesi molto inquietante. Questo ce lo fa pensare il fatto che molte volte ci capita di ricevere degli annunci pubblicitari di prodotti, di oggetti, di servizi che noi abbiamo avuto l'impressione di aver soltanto nominato vocalmente. Vi faccio un esempio personale, quello che avete sentito è dal canale YouTube Carm Hack, è un signore che prova a nominare Clio Makeup, Gigi D'Alessio al telefono e poi verifica se gli vengono suggeriti come su YouTube come siti da frequentare. A me succede spesso, sento spesso persone che mi dicono che succede, un amico una volta mi raccontò che aveva chiesto al portiere come smacchiare un tappeto persiano, così mentre usciva di casa, dopo un po' sono arrivate le pubblicità delle tintorie che facevano questo servizio e lei giurava di non aver cercato nulla in rete. Io stesso una settimana fa avevo bisogno di un dentista che mi faccia male un dente, ho chiamato, ho preso appuntamento con il mio dentista al telefono senza fare nessun'altra operazione, mi sono cominciati a arrivare degli annunci per pulizie dei denti, impianti dentari, via dicendo. Guardate, mi arrivano non insieme altri annunci, mi arrivano come notifica in alto nel mio telefono come prima notifica. Questo accade in innumerevoli altre circostanze, tanto che è diventata un po' una fissazione, uno si rende conto che arriva improvvisamente la pubblicità di quel tagliaerba che tu hai comprato e ti chiedi come mai ti arrivi e ti arrivano tutta una serie di informazioni. Mi sono confrontato con un po' di persone e l'idea che tutti abbiamo che a un certo punto ci arrivano informazioni e notifiche pubblicitarie riguardo argomenti che noi abbiamo soltanto toccato. Ma io questa mattina ho messo insieme degli esperti, sia dal punto di vista giuridico, sia dal punto di vista del disvelamento quanto possa esserci di vero in questa voce che sta circolando. Ci sono molti siti che ci suggeriscono come fare la verifica, come andare a vedere nelle informazioni che noi mettiamo nel nostro profilo Google, ad esempio, se veramente Google ci registra le nostre telefonate, si parla di database con la nostra voce registrata. Non ho fatto nessuna di queste verifiche, ma mi affido alle persone che più hanno esperienza di me in questo settore. Tanto vi prego di chiamare all'800240024 se avete avuto anche voi un qualche sentore che improvvisamente, stranamente, singolarmente, qualcosa di cui state parlando viene notificato attraverso un annuncio pubblicitario. Certo, c'è da preoccuparsi quando cominciano ad arrivare gli annunci su dei medicamenti misteriosi per il rinforzamento della propria appendice virile, dice ma chissà cosa avrò detto, cosa avrò fatto, chissà quale momento mi avrà colto. E questo pure può essere accaduto a molte persone, o anche simili problemi che vi danno l'idea comunque che il vostro più fedele strumento di collegamento, di comunicazione e socializzazione in realtà sia una spia infida che vi tenete accanto. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno, ciao Gianluca. Allora, ricordate Andrea Rossetti, ospite nostro consueto, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Allora, Andrea, tu anche ti sarai posto questo problema. Quello che voglio chiederti, sarebbe mai possibile che noi abbiamo firmato un'autorizzazione in quelle infinite che ci vengono date da firmare, abbiamo accettato che un'app qualsiasi si prendesse cura del nostro microfono, del nostro altoparlante, insomma non ci abbiamo fatto caso e qualcuno realmente trasforma in indicazioni di marketing quelli che sono dei nostri quotidiani discorsi con altre persone? Allora, secondo quello che abbiamo sottoscritto no, nel senso che tutti quando abbiamo installato un assistente vocale di qualche genere molto probabilmente abbiamo concesso ad Amazon o a Google, che sono i due assistenti vocali più diffusi, la possibilità di registrare quello che diciamo, questo sì, questo l'abbiamo ammesso, peraltro ultimamente sono state anche aggiornate le policy e ad esempio viene garantito che ciò che viene pronunciato da un bambino non viene registrato, non viene conservato, ma viene cancellato immediatamente dopo che l'ordine è stato eseguito. Scusa, ma se non c'è la voce un po' in falsetto, metti caso Mario Giordano, è un caro collega. Oppure realtà, una signora con una voce che assomiglia a quella di un bambino, come fanno a capire che è un bambino? In realtà Google adesso ad esempio permette di creare degli account ai genitori, degli account che identificano alcune persone come bambini, come minori, quindi diciamo, quando il messaggio arriva, allora prima di far classificare tutta la tua famiglia dal punto di vista dello spettro vocale, certo. Dopodiché esclude alcune persone. Certo, sì, ma questo lo fa anche con una discreta efficienza. Io Google fondamentalmente lo fa, nel senso che riconosce le persone, nel senso che se io dico ciao Google la mattina, lui mi risponde ciao Andrea. Se lo dice mio figliastro Riccardo, Google gli risponde ciao Riccardo. Insomma, quindi Google riconosce proprio chi sta parlando in quel momento. È chiaro che ho dovuto addestrarlo, no? Quindi siamo vocalmente classificati. Diciamo, una persona che vive in una famiglia di 4-5 persone, se usa solo se usa l'assistente vocale o comunque? No, solo si usa l'assistente vocale. Se abbiamo creato proprio un suo account sull'assistente vocale, l'abbiamo fatto riconoscere. Tieni conto comunque che ci sono sistemi che permettono di riconoscere l'età delle persone unicamente da come parlano, cioè senza averlo riconosciuto prima, no? Un po' come si possono riconoscere l'età di una persona guardando le rughe. Ecco, ma lo faccio per chiarire agli ascoltatori che già stanno cominciando a chiamare. Metti caso che io non ho un assistente vocale, infatti non ce l'ho. Ho soltanto un telefonino che gira su Android, che ogni tanto mi dice di ciao Google, non lo dico perché non mi serve l'assistente vocale sul telefonino. Il mio telefonino è comunque abilitato a riconoscere la mia voce e usare la mia voce e registrare la mia voce senza che io lo autorizzi? Ho già autorizzato da qualche parte. Probabilmente l'hai autorizzato. Allora, se succede quello che tu mi dici, probabilmente l'hai autorizzato a qualche parte. Cioè, hai autorizzato a usare l'assistente vocale, quindi a rispondere al telefono quando dici ok Google o ciao Alexa, adesso non so bene che cosa, e probabilmente senza badarci gli hai anche dato la possibilità di registrare quello che tu dici, in modo che ciò che tu hai registrato possa essere analizzato da esseri umani, questo per migliorare il servizio, no? Per migliorare il riconoscimento di questi strumenti che chiaramente devono essere addestrati, insomma, non è che sanno. A me arriva anche la pubblicità ultimamente di casse da morto. Sto un po' giù, non è che sia proprio allegro, ma mi sembra un po' esagerato, sinceramente. Se questo è migliorare il servizio, non lo so. No, attenzione, no. Il servizio di riconoscimento, no? Perché in realtà quando si firmano queste cose si dice anche esplicitamente, insomma, nei termini, guarda, che ho riguardato proprio stamattina, che quello che viene registrato non viene analizzato per quello che riguarda il contenuto, no? Quindi se tu dici casse da morto, almeno quello che c'è scritto nei termini. No, ma io ho parlato con amici di persone che sono scomparse, questo è vero, negli ultimi due giorni sono stati un paio di lutti a casa di amici miei, ne abbiamo parlato al telefono e a me arrivano gli annunci delle casse da morto. Ma qui probabilmente il meccanismo è di carattere cognitivo, diciamo così, no? Come, nel senso che noi tendiamo a notare diciamo così, gli eventi che corroborano quello che noi crediamo. No? Quindi se noi fermo un attimo, cominciano ad arrivare gli ascoltatori, sennò sembro l'unico scemo in Italia che si pone questi problemi. Io sono pronto a modificare e a sovrascrivere ogni mia convinzione, però voglio strumenti seri per capirlo. Allora, Gabriele da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie di avermi invitato. Volevo dire che io semplicemente un po' di tempo fa mi ero messo per sfizio a cercare informazioni storiche e tutto sulla metropolitana di New York. E per un mese sono stato assillato da pubblicità sui viaggi a New York, promozioni, dove prenotare. Beh, tu l'hai cercata eccetera, in rete eccetera. Queste informazioni? L'hai cercata in rete? Sì. Beh, allora di cosa ti meravigli? Chiaro, quando noi digitiamo nel motore di ricerca un qualsiasi dato, quel dato immediatamente viene trasformato in un'appetibile informazione di marketing. Io sto parlando di un'altra cosa, sto parlando di quello che noi diciamo a voce, non digitando nulla. Questo è l'aspetto. Ma il fatto che tu digiti qualcosa e poi ti mandi una pubblicità, questo è scontato, questo va da sé. Sentiamo Sandra, buongiorno. Sandra. Buongiorno. L'ascolto. Allora, oltre a quello della pubblicità che praticamente succede un po' a tutti, ho verificato anche con amici. Vabbè, quello è normale, È normale. Però una cosa strana, ma questa veramente mi ha sconvolto, è che io l'altra sera stavo richiamando mio figlio, 15enne, adolescente, per un problema, e ad alta voce, come succede alle mamme di solito, no? E dopo un po' mi è arrivata una mail addirittura, non una pubblicità, da una, credo fosse una psicologa, che dice l'argomento era non serve urlare ai propri figli. Vabbè, e questo è qualcosa di paranormale. Allora, resta in onda, Sandra, resta in onda. Paolo Attivissimo, buongiorno. Buongiorno. Allora, ti ho lasciato ascoltare anche tutto quello che ho confessato io senza pudicizia, quello che dicono gli ascoltatori. Ricordo che Paolo Attivissimo è un giornalista, informatico, è un blogger, svolge opera di debunking nelle più diffuse teorie complottiste, ormai è diventato un punto di riferimento, e su questo tema ha scritto molto. Dammi innanzitutto il tuo giudizio a caldo, poi mi dirai quello che hai approfondito, perché poi tu sei quello che le cose poi le va a fare, le va a vedere nei minimi particolari, non si ferma alle impressioni. Senz'altro nel caso di Sandra si tratta di una coincidenza, vale a dire noi tendiamo a notare due fenomeni quando magari non sono realmente collegati fra loro, ma siamo noi a metterli in connessione. Si chiama illusione di frequenza o illusione di recentezza. È la classica cosa come quando compriamo un'auto di un certo colore, improvvisamente tutte le auto che incontriamo hanno lo stesso maledetto colore che abbiamo scelto noi. Lo selezioniamo fra tanti colori, certo. Esatto, quindi siamo spesso noi a notare le coincidenze, magari la Sandra ha ricevuto tantissime mail su tantissimi argomenti, ha detto tante cose ai figli, ha fatto come tutti noi conversazioni tutto il giorno, però il nostro cervello è predisposto per notare quando due fenomeni separati hanno dei punti di contatto, e quindi questo credo che sia la chiave di molte delle segnalazioni di strani monitoraggi da parte dei nostri telefonini. Va chiarito, anche per collegarmi a quello che diceva bene Andrea Rossetti, che quando noi diamo l'autorizzazione attraverso i nostri telefonini lo diamo soltanto per la parte della conversazione che arriva dopo che abbiamo detto ok Google o hey Siri o Alexa, quindi non è un'autorizzazione a tutto campo a registrare tutto il giorno tutto quello che diciamo. Questo credo che sia molto importante da chiarire. Questo è un meccanismo che comunque, volendo, mi confermi, può essere disattivato. Diremo adesso fra poco in che maniera, se uno si pone questo problema, angosciato questa cosa, ammesso come ho fatto io probabilmente in maniera incauta, ho dato il segnale al mio telefono di potermi registrare alcune cose, cosa che non ricordo aver mai fatto, devo poterlo disattivare. Ci fermiamo un istante e poi riprendiamo con i nostri esperti, con tanti ascoltatori che stanno chiamando. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Ultimamente su Google, particolarmente Google America, sta andando molto un tipo di video dove provano a fare un esperimento per vedere se Google e Facebook sono sempre in ascolto di quello che diciamo al telefono, anche non in chiamata, non in messaggi, proprio con il telefono in mano. Noi parliamo magari a un amico di fronte a noi e loro provano a vedere se effettivamente quello che diciamo poi viene sfruttato per l'advertising. E in questi esperimenti pare che sia così, però non sono abbastanza convinto, quindi proveremo a rifarli anche noi. Proverò prima a dire quello sopra e poi quello sotto, e proveremo a vedere se su YouTube effettivamente ci vengano consigliati queste due cose. In questo caso Gigi D'Alessio e Clio Makeup, era Clio Makeup e Gigi D'Alessio, sì, una cosa del genere. Possiamo notare che 800024 questo è l'esperimento di cui vi stavo parlando. Un blogger prova a nominare Clio Makeup e Gigi D'Alessio e vedere se poi questo viene registrato da Google, in qualche maniera trasformato in annuncio pubblicitario. Questo è un tema di cui stiamo parlando oggi. L'impressione che noi abbiamo è che senza autorizzazione, ma stiamo capendo che in realtà l'autorizzazione l'abbiamo comunque data se questo avviene, il nostro telefono possa ascoltarci, registrare quello che diciamo e trasformare in annuncio pubblicitario quelle che sono le nostre parole. Ne stiamo parlando con Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Ne stiamo parlando con Paolo Attivissimo, che è un giornalista informatico, un blogger, fa un debunking importante attraverso il sito attivissimo.net o il blog Il Disinformatico. Sentiamo ancora qualche ascoltatore, così diamo ancora più argomenti ai nostri ospiti. Finora mi sembra aver capito che la sintesi è, dice Rossetti, il giurista, comunque sia quello che fanno tu l'hai autorizzato, non possono far nulla che tu non l'abbia autorizzato, se no sanno di incorrere in rischi terrificanti. Invece Paolo Attivissimo ha studiato profondamente il problema, dice che esiste un meccanismo, una sorta di bias, di nostra predisposizione a vedere quello che vogliamo vedere. Fra i tanti annunci ci piace vedere quello delle caramelle col buco che abbiamo descritto al telefono alla nostra fidanzata. Sentiamo Tommaso. Tommaso, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Poi ma è vero che hai 16 anni, Tommaso? Hai 16 anni, mi scrivono. Sì, ho 16 anni. C'è il tuo papà con te però, perché sì, mi piace. Sei accompagnato prima dal genitore. Benissimo, allora dimmi tutto. Io da qualche mese a questa parte sto parlando con i miei genitori, con i miei amici, di iniziare a fare box, ma non ho mai detto precisamente quali palestre, non ho mai detto se voglio farlo fuori Torino o a Torino. Il fatto sta che ricevo una volta alla settimana, una volta ogni due settimane, qualche annuncio sia su Instagram che su Facebook che su Google tra i consigliati di palestre di box, di palestre di kickboxing, di arti marziali. Quindi io ormai non sono, cioè non mi riesco ad impressionare con queste cose, però mi sorprende molto fino a che punto siamo arrivati oggi con la tecnologia. E niente. Ti posso fare una domanda? Essendo certo tu appassionato e pensando di volerti iscrivere a una palestra di box, vuoi che nelle ultime settimane non hai mai fatto una ricerca in un sito che si occupa di box? Ho fatto un mese fa una ricerca per andare a vicino a una palestra di box. Però cioè, giustamente su Google Maps giustamente le informazioni rimangono, ma ciò vuol questo dire secondo che me Google è già sufficiente. Cioè tu la parola Google box in qualche maniera l'hai digitata da qualche parte e quindi ti ritorna adesso, l'avrai digitata anche con insistenza, avrai scritto magari in una chat ai tuoi amici voglio fare la box, avrai cercato siti di box, questo ha fatto sì che comunque abbia registrato il dato ricorrente box e adesso ti becchi tutte le palestre, i guantoni, i sacchi, via dicendo, che tutto sommato ti è anche utile. Sentiamo Massimiliano. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a lei. Racconto la mia esperienza, che è alquanto, come dire, bizzarra e forse confermativa del fatto che i nostri cellulari ascoltino ogni nostra discussione. La situazione è questa: tavolino in villa, peraltro con difficoltà a connettersi alle reti di qualsiasi gestore, ma comunque molto debole. Una delle mie amiche, stavamo bevendo qualcosa, dice ad alta voce: ragazzi, forse ho la cistite. Vi dava un'informazione fondamentale sul proseguire peraltro, della giornata, vabbè, certo. C'è molta, come dire, confidenza. Quindi, detto questo, per fortuna sua non era così. Detto questo, quando ho avuto campo, dopo un paio d'ore, sono finito su Facebook, ho scrollato l'home page e tra i gruppi suggeriti c'era Stop Cistite, Cistite Parliamone, più credo una pubblicità di cui però non ricordo il nome, ma comunque non lo farei, su un medicinale dedicato appunto a questa patologia. Ma tu sei sicuro di non aver cercato comunque quando no, avete detto cistite? Per fortuna mia non ho fare una ricerca per dire che succede quando una donna ha la cistite, tutte queste cose qua, no? No, diciamo non è tra le mie curiosità principali, ecco, quindi. Va bene, allora sentiamo innanzitutto Paolo Attivissimo. Ti ho dato un altro ventaglio di possibilità, quello del ragazzo che cercava la box mi sembra abbastanza chiaro, questo della cistite c'è qualche elemento ancora più difficoltoso, può essere che la ragazza abbia cercato lei un rimedio per la cistite nella stessa rete comune, o usando la rete che usava anche il ragazzo, o usando il telefono del ragazzo, non lo so, tu cosa ne dici? Ma credo che questi esempi siano la dimostrazione molto chiara del fatto che noi abbiamo a che fare con motori di ricerca come Google e social network, il cui mestiere è tirar fuori tutto quello che riescono dalle nostre informazioni, e non hanno bisogno di ascoltare le nostre conversazioni perché sanno dove siamo, sanno in compagnia di chi siamo, il nostro telefonino è vicino a quello della nostra amica. Quindi se la nostra amica sta cercando qualche cosa è probabile che anche noi saremo interessati alla stessa cosa per qualche ragione. Quindi più, è probabile che la signorina abbia cercato lei una medicina per la cistite o una farmacia o qualcosa del genere che stava accanto alla persona con cui lo diceva e quindi è stato registrato il dato nelle prossimità di quel signore. Esatto, si chiamano metadati fondamentalmente, cioè sono i dati di contorno alle nostre discussioni, alle nostre conversazioni, ai nostri messaggi, alle nostre ricerche sul web. Teniamo presente che ogni volta che noi visitiamo un sito c'è un tracciamento che identifica l'argomento che ci interessa e poi queste informazioni vengono smerciate ai motori di ricerca e ai social network. Quindi se abbiamo cercato qualunque sito riguardante la cistite, quell'informazione è, come dire, segnata con una bandierina, guarda che a questa persona interessa l'argomento, probabilmente interessa anche alle persone che le sono vicine, e da qui nasce la precisione del marketing. Ci aggiungiamo poi la sensazione che abbiamo, la percezione facile delle coincidenze che abbiamo tutti, e il gioco è fatto. Quindi fondamentalmente non c'è bisogno per i grandi motori di ricerca di arrivare a commettere un atto illegale come l'ascolto generalizzato delle conversazioni, è sufficiente raccogliere tutte le informazioni che noi mettiamo, dalla localizzazione al tipo di dispositivo che usiamo, alla lingua che parliamo, agli orari che usiamo per consultare internet, quanti messaggi scambiamo con quante persone. Teniamo presente che noi quando ci siamo iscritti a WhatsApp o a Facebook abbiamo dato a tutti questi servizi l'elenco completo dei nostri amici e lo aggiorniamo costantemente e glielo forniamo, quindi per loro è facile dedurre co-interessi. Detto questo, mi sembra che il dato fondamentale che ci viene da Paolo Attivissimo dice: cerchiamo con attenzione di renderci conto dell'universo di informazioni che diamo ogni momento, soprattutto quando siamo anche insieme ad altre persone. Questo punto diventa una catena di esseri umani che fornisce informazioni che rimbalzano l'una all'altra. Immaginate, mi dirà Andrea Rossetti se è sbagliata l'idea, che noi viviamo in una sorta di realtà aumentata che non vediamo. Se potessimo vedere la realtà aumentata, in realtà aumentata, quello che intorno a noi stiamo disperdendo di informazioni, vedremmo la medicina per la cistite, i guantoni da box, la cassa da morto per l'amico che ti chiama che gli è morto il parente, l'allungamento fallico per chi ha semplicemente convocato una persona per un setting amatoriale a casa sua, e via dicendo. Ecco, tutto questo c'è intorno a noi, è come se fosse concreto, non lo vediamo, ma questa informazione noi le diamo. Andrea Rossetti. Sì, è esattamente così. C'è un documentario fatto un annetto fa, più o meno, che si intitola Nothing to Hide, niente da nascondere, anche sottotitolato in italiano, si trova facilmente. E l'esperimento che viene fatto è prendere uno sconosciuto DJ tedesco e studiare i suoi metadati per un mese, unicamente i suoi metadati, no? Quindi non ad esempio il contenuto del messaggio di WhatsApp, ma dove e quando WhatsApp è stato, quel messaggio è stato prodotto e verso chi è stato inviato. Ecco, nel giro di un mese i tre ricercatori, tra cui peraltro un italiano, che studiano il problema, riescono a individuare un sacco di caratteristiche di questo individuo senza conoscere chi è, cioè senza sapere il suo nome e il suo cognome. Individuano chi è la sua mamma, qual è la sua fascia di reddito, dove probabilmente abita, che abitudini ha, capiscono il mestiere che fa, ad esempio, perché iniziano a suonare anche con DJ, perché questo tizio sta a volte sveglio per 24 ore ininterrotte, quindi capiscono che fa un mestiere che ha a che fare con la notte. Ed è veramente incredibile, vale la pena guardarlo se qualcuno ha qualche curiosità, perché la scia di metadati che inevitabilmente ci lasciamo dietro permette, appunto, come dicevi tu Gianluca e come diceva anche Paolo Attivissimo, di dedurre, di inferire una serie di caratteristiche individuali proprio, no? E questo è il pericolo, insomma. Si parla spesso, no, di lasciare dati anonimi. Lasciare dati anonimi è comunque pericoloso, perché anche un set di dati anonimi abbastanza grande in realtà non è più anonimo, no? Permette in realtà di individuare un gruppo, una persona o un gruppo di persone ben specifico. Allora noi consideriamo così, e ci sentiamo fra un istante, devo dare la linea, i nostri passi che rimangono impressi nel terreno che noi attraversiamo sono passi di cui abbiamo consapevolezza, vengono registrati e usati. Ma in più solleviamo un'infinità di granelli di polvere a cui non facciamo caso. Quei granelli di polvere comunque ricostruiscono ogni nostro passaggio, ogni nostra azione, ogni nostra relazione, ogni nostro pensiero. Ringrazio intanto Pietro Lacorte da Milano, Gloria Guerrera e Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma, e ci sentiamo tra un istante. Melog 800240024, non posso fare a meno di mandare in onda le telefonate delle persone che hanno episodi al limite del paranormale da segnalare. Paranormale che stiamo in qualche maniera noi spiegando e specificando con i nostri ospiti quanto poco abbia di misterioso, ma in realtà fa parte forse della nostra scarsa attenzione rispetto ai granelli di paglia, di sabbia che involontariamente lasciamo come traccia del nostro passaggio, e qualcuno ne fa il suo tesoro. Maurizio, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi lasciamo delle tracce, dei passi, diceva lei. A me è capitata una cosa al limite del paranormale, come ha appena detto. Un giorno stavo facendo una passeggiata in centro a Torino, in via Roma, passo davanti alle vetrine di una nota catena di abbigliamento intimo, e mi incuriosiscono due paio di boxer da uomo. Entro, li compro, esco e mi trovo su Facebook, su Amazon, pubblicità di boxer. Ma l'avrà pagati con la carta di credito, può essere? Sì, l'ho pagati con la carta di credito. Allora, però... di cosa si meraviglia? Ogni sua transazione. Comunque, il negozio ha tutto l'interesse, dopo che lei ha comprato le mutande e ne è uscito, a mandargli pubblicità di altre mutande. Quindi lei, rifletta bene, ha lasciato una traccia indelebile. Andrea, cosa le è accaduto? Sì, buongiorno Nicoletti. Da mia esperienza, allora, avevo lo scarico della doccia che faticava a far defluire l'acqua. Non ne ho parlato con nessuno, vivo da solo, quindi non ne ho, nessun altro ne era a conoscenza. Avevo la ventosa in casa, ho sturato la doccia. Il giorno dopo, tra le varie pubblicità che ho visto sul PC, mi è apparsa una che diceva non attendere che sia troppo tardi. Pubblicizzava un noto sturatore di scarichi dei lavandini. Ma lei non ha fatto una ricerca per capire di più come poteva sturare il suo scarico? No, io non ho cercato niente. L'unica cosa che qualche dispositivo possa aver fatto è aver, a mio avviso, cioè, è un'opinione. Ma l'ha scritto qualcuno su WhatsApp? Qualcuno su WhatsApp, ha detto qualche amico? No, scritto anche qualche perché amico. Marrangio anche abbastanza bene a fare i lavoretti in casa, quindi avevo... Non c'è una risposta, le hanno messo un microchip nello stura lavandini probabilmente, sto scherzando. Però però mi viene a pensare. Allora, Paolo Attivissimo, ricordo il suo blog, il Disinformatico, e attivissimo.net, il sito in cui trovate anche una spiegazione a questo fenomeno. Vedi, se entriamo nella narrazione mitologica dei nostri fatti inspiegabili, alla fine però scava mi hai convinto, ancora una volta sono riuscito a sovrapporre un pensiero altrui al mio, non c'è niente di strano, di misterioso o di truffaldino, semplicemente noi lasciamo delle tracce. Lo Stura Lavandini mi lascia qualche perplessità, ma ci sarà una spiegazione. Sì, nel caso dello Stura Lavandini credo che si tratti semplicemente di una coincidenza, così come capita anche nel mondo dei sogni, noi sogniamo. Ma non si ricorda, aveva fatto una ricerca su qualche sistema dell'otturazione, uno non si ricorda, ogni giorno cerchiamo un'infinità di cose. Può anche darsi, però in questi casi è sufficiente il nostro meccanismo mentale automatico. Quante pubblicità avrà visto Andrea nel corso della giornata? Gli è rimasta impressa quella che era attinente a qualche cosa che aveva fatto. Quante volte gli è capitato in passato di vedere la pubblicità dello Stura Lavandini e non farci caso? Questi sono i processi che stanno alla base di questi effetti che hanno effettivamente dell'inquietante, anche a me sono capitati. Ha un nome casi, scientifico questo nostro procedimento che tendiamo a dimenticare e a selezionare a sua volta a seconda delle coincidenze, sì, è stato studiato? Sì, ne ha più di uno perché gli scienziati non si mettono mai d'accordo, ma lo si chiama spesso effetto Bader-Meinhof o illusione di frequenza o illusione di recentezza. Bader-Meinhof dal gruppo terroristico tedesco? Non so. Qual è. Sì. È una storia molto complicata. Vabbè, adesso non abbiamo tempo. Comunque esiste, è stato studiato. Quindi tu, che hai analizzato anche con attenzione, escludi categoricamente che ci possa essere un sistema di rilevamento delle nostre parole, dei nostri discorsi, che noi non abbiamo autorizzato. Forse dovremmo fare un'analisi più attenta di quello che noi abbiamo autorizzato, magari, piuttosto che credere nei fantasmi. Beh, diciamo che non si può escludere totalmente, ma non ce n'è ragionevole bisogno. Il rischio imprenditoriale per aziende che dovessero fare questo monitoraggio di massa, questa sorveglianza di massa sarebbe altissimo e non sarebbe giustificato, per cui il buon senso suggerisce che non ci sia. In ogni caso, se qualcuno ha questa esigenza di proteggere le proprie conversazioni, giustissima, esistono dei telefonini che non hanno l'assistente vocale, si può anche decidere di non installare in casa i vari Alexa e altri dispositivi che sono in ascolto costante, quindi la scelta si può ancora fare. Quello che è importante però chiarire è che tutti questi oggetti si possono attivare anche per errore, cioè non è soltanto quando noi diciamo ehi Google, ehi Siri, Alexa che si attivano. Si attivano e cominciano a registrare anche quando credono di aver sentito queste parole chiave. Quindi, per esempio, se un telefilm include il nome Alexa di una famosa spia russa, può darsi che il nostro dispositivo di assistenza vocale si svegli e cominci a registrare quello che succede in casa. E chi ha un assistente di Amazon può andare sul proprio account a vedere i pezzi delle proprie conversazioni che sono stati registrati e capire esattamente come funziona. Allora, Andrea Rossetti, ti farò ascoltare adesso altre storie di ascoltatori, perché è giusto sentirle tutte. Potresti dire con esattezza qual è il rimedio che ognuno può porre prendendo in mano i propri oggetti di comunicazione, per essere sicuro perlomeno che tutto quello che lui non ha pensato e immaginato non venga registrato? Allora ovviamente dal punto di vista tecnico bisogna un po' andare a cercare nelle impostazioni che io do alle varie applicazioni, ma ci sono istruzioni chiare sia per quello che riguarda Google sia per quello che riguarda Amazon in pagine dove viene descritto esattamente tutto quello che viene legittimamente fatto con i nostri dati. Sono pagine piuttosto lunghe, piuttosto complesse, ma ben fatte, nel senso che quando ti dicono, non solo ti dicono come fare una cosa, ma ti portano proprio al link alla pagina in cui poi effettivamente disattivare o attivare un determinato servizio che tu vuoi. Quindi la cosa migliore è fare una ricerca e trovare, sfruculiare un po' queste impostazioni che, ripeto, quando noi magari installiamo un'app la prima volta diamo un po', no, in maniera irriflessa. Però, come giustamente diceva Paolo Attivissimo, appunto i grandi player in questo campo non hanno nessun interesse a giocare sporco, no? Perché anche perché il rischio per loro sarebbe immenso. È molto alto. è molto alto. Non dimentichiamoci che le multe che adesso col GDPR si possono dare sono dell'ordine, sono determinate al fatturato mondiale che un'azienda ha, fino al 4%, e quindi la sanzione può essere veramente economicamente pesante anche per entità grosse come Google, come Facebook, come Max. Quindi non ne vale semplicemente la pena, appunto. Allora non converrebbe, ascoltarci per venderci uno sturalavandini, ecco, non ne converrebbe. Non conviene barare, fondamentalmente, in questo dobbiamo momento stare soltanto noi più attenti. È inutile, più agevolazioni abbiamo, esatto, più divertimento abbiamo. Entriamo, accende le luci Alexia, Google fammi sentire questa musica, bello, è figo, fa molta scena, però ci sta dietro che ti porti una coda di disattenzioni alle quali poi in qualche maniera devi renderti conto e dare conto. Sentiamo qualche altra ascoltatrice. Maria Teresa, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, a me è successo alcune settimane fa, ero in cucina, premetto che non ho nessun Alexa o Siri né sul telefono, però il telefono, né per le però un telefonino, ha uno smartphone, sì. Ho uno smartphone che non avevo in mano nel momento in cui mi è successo quello di cui le volevo parlare. Allora, eravamo in casa, in cucina, e io e mio marito una domenica, cuciniamo per tutti i ragazzi che vengono a trovarci. Benissimo. Dopo un po' diciamo, ma guarda, quest'anno non abbiamo ancora fatto il vitello tonnato che facciamo sempre, tutti gli anni, eccetera. Dopo mezz'ora mi è arrivato un avviso di ricetta sul telefono ed era vitello tonnato. Non me ne importava niente di andare. Sì, sì, è veramente sconvolgente, però si rende conto, se ha ascoltato attentamente la trasmissione, un motivo c'è. Qualcuno di voi ha detto o registrato o cercato vitello tonnato, se l'ha fatto lei, l'ha fatto suo marito, e il vitello tonnato è arrivato sulla vostra mensa anche attraverso il vostro telefono. Grazie Paolo Attivissimo, grazie Andrea Rossetti, alla prossima. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.